Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Oggi abbiamo anche le campanelline. Buongiorno, grazie per essere in nostra compagnia. Carmelo Lauricelli in regia la parte tecnica. E allora dovrebbe mettersi almeno un cappellino da Babbo Natale, visto che è cambiata la sigla. Laura Vanossi in redazione. Naturalmente ci sono i titoli del nostro sommario. Andiamo a sentirli insieme. Herpes, un ospite che non ci lascia mai. Ricostruzione delle unghie, pro e contro. Scegli con noi il profumo del tuo Natale. Herpes, basta la parola, tutti noi per esperienza diretta o indiretta conosciamo sicuramente uno dei componenti più in vista, direi, della grande famiglia degli herpes, l'herpes labialis, la febbre come la chiamiamo noi, quelle bollicine tanto brutte quanto fastidiose che si localizzano sulle labbra. Della stessa famiglia, come sappiamo e come i loro nomi suggeriscono, fanno parte anche l'herpes genitalis e l'herpes zoster, meglio noto come fuoco di Sant'Antonio. Allora, di febbre di fuoco, perché per l'herpes genitalis non conosco nomi di battaglia, ci occuperemo oggi insieme ai nostri esperti, quindi se li conoscete, se volete conoscerli meglio per difendervi, chiamateci. Oggi vi metto a disposizione il nostro numero verde, veramente lo faccio come sempre, come ogni giorno, comunque ve lo rinnovo, 800 24 0024 e anche il numero per inviarci i vostri messaggi. 349-238-6666. In studio con me il dottor Marco Cusini, che è dermatologo e responsabile del Centro di Malattia Trasmissione Sessuale della Fondazione Policlinico di Milano. Buongiorno. Buongiorno. In linea invece abbiamo il professor Crucu, che è tornato a trovarci, ordinario di neurologia della Sapienza di Roma e autore di numerose pubblicazioni sul dolore neuropatico. Professore, buongiorno. Buongiorno Nicoletta. Allora, al dottor Cusini, come in qualità di dermatologo, chiederemo di aiutarci a spegnere l'incendio e la febbre. Dottor Cusini. Certo. Lei farà un po' il pompiere. Va bene, ci provo. Mentre il professor Crucu, come neurologo, lei entrerà in scena in un secondo momento, ma intanto rimane con noi perché lei può intervenire sempre, perché il neurologo entra in azione quando... Professore, ci sono delle complicanze. Sì, soprattutto quando l'herpes zoster si trasforma in nevralgia postherpetica. E lì sono dolori. È abbastanza frequente, professore? Soprattutto andando avanti con gli anni diventa sempre maggiore la frequenza di questa cronicizzazione. Ma è colpa del dermatologo, dottor Cusini, che non lo cura bene? È sempre colpa del dermatologo. Dottor Cusini. I dermatologi hanno un sacco di colpe negli ultimi anni. La colpa qualche volta è del dermatologo, perché si è visto che con questi antivirali che da una quindicina, ventina d'anni ci sono, che abbiamo a disposizione per il trattamento dell'herpes zoster, la frequenza del dolore postherpetico, della nevralgia postherpetica, può essere ridotta a patto di una precocità di intervento. Bisogna arrivare presto, se no non serve a nulla. Allora, di questo naturalmente parleremo nel corso della trasmissione. Con l'herpes labialis si va meglio? Sì, molto meglio, anche perché le complicanze sono minori. È brutto da vedere, è molto fastidioso per chi ce l'ha. Però si tampona. Parleremo naturalmente anche dell'herpes genitalis, tutti i virus che appartengono a una grande famiglia, di cui ci facciamo raccontare le caratteristiche dal professor Antonio Volpi, che è responsabile dell'ambulatorio di malattie infettive del Policlinico Tor Vergata a Roma. Professore, buongiorno. Buongiorno a lei, ai suoi ascoltatori e ai suoi ospiti. Che caratteristiche, abbiamo detto una grande famiglia di virus, e i suoi componenti sicuramente hanno delle caratteristiche comuni, altrimenti che famiglia sarebbe, mi chiedo? Certo, dunque sono, in realtà negli umani sono 8 e probabilmente vanno ad aumentare, perché l'ultimo è stato scoperto nel 1994, quindi insomma c'è ancora spazio probabilmente per altri virus erpetici. Hanno delle caratteristiche comuni, anche se si dividono poi in sottofamiglie. Lei di quelli di cui ha parlato, cioè il l'herpes simplex di tipo 1 e 2 e l'herpes, il virus della varicella zoster, appartengono a quella che è chiamata la famiglia degli alfa, il first virus. Sì. Una famiglia che è neurotropica, cioè nel senso che ha questo tropismo per il sistema nervoso, tende a diventare latente a livello di sistema nervoso, e questa è la caratteristica principale di tutti i virus epatici, ecco, per questo latenti. Senta, professore, per questo abbiamo un dermatologo e un neurologo, ma sì, è vero che sono virus molto intelligenti, che se ci scelgono lo fanno per la vita? Ma certo, una volta che entrano nell'organismo non escono più, cioè vanno da, entrano, vanno a livello di sistema nervoso, i virus di cui stiamo parlando oggi, a livello di cellule del sangue, i virus delle altre famiglie, e dopodiché permangono nell'organismo, e quello è il loro sistema di sopravvivere. Per esempio, per quanto riguarda il virus varicella zoster, il fatto di avere la varicella e dopo tantissimi anni lo zoster è un sistema di sopravvivenza del virus. In più bisogna anche tener conto del fatto che hanno sviluppato, sono virus antichissimi, hanno sviluppato nel corso degli anni un sistema per contrastare il sistema immune, per evadere dal sistema immune, e quindi una volta che loro si nascondono all'interno di una cellula umana non sono più visibili dal sistema immune, e tra l'altro non sono neanche più visibili dalle terapie disponibili. Quindi sono dei parassiti perfetti. Esatto, quindi loro, praticamente il loro scopo, lo scopo della loro vita è la persistenza. Senta, professor Volpi, alla famiglia degli herpes, lei ha detto appunto si divide in tre sottofamiglie, appartengono anche il citomegalovirus e l'Epstein-Barr, che è il virus poi della mononucleosi, la famosa malattia del bacio. Esatto, cioè praticamente citomegalovirus e Epstein-Barr in realtà appartengono a due sottofamiglie diverse e hanno però tutte e due un aumento delle cellule cosiddette mononucleate nel sangue, quelle che quando si legge l'emogromo leggiamo come linfociti o monociti, quelle sì, aumentano. E il virus di Epstein-Barr in particolare è quella, la malattia del bacio, che dà le ghiandole, linfoghiandole aumentate, dà parecchi altri disturbi, dà un ingrossamento della mitra quando la dà. Senta, però, professore, adesso che arrivano le vacanze di Natale, le feste di Natale, ci sarà tutto uno scambiarsi di baci? Ma no, dunque, allora andiamo tranquilli. Certamente, perché il virus normalmente viene acquisito nell'infanzia. Il 90% a 15 anni ha già acquisito il virus senza nessun tipo di sintomatologia. Soltanto una piccola percentuale, soprattutto quelli che prendono, che si infettano per la prima volta in età più avanzata, poi presentano tutto questo corredo sintomatologico importante. Quindi, insomma, io starei abbastanza tranquillo, perlomeno il 90% della popolazione può stare tranquillo. Allora baciamoci, professor Volpi, la saluto. Grazie, grazie, auguri, grazie, buona giornata. Allora, per voi, soffrite di herpes? Già ascoltatori mi stanno scrivendo di sì e mi stanno già suggerendo i loro rimedi. Grazie per questo, li passeremo in rassegna. Chiamateci o scriveteci anche se avete un figlio, un partner, una sorella che ne soffre, e quando, cosa fate quando compaiono le bollicine, soprattutto se avete notato se il problema si manifesta in seguito a particolari circostanze, ad esempio siete sotto stress, avete avuto l'influenza, siete particolarmente nervosi, oppure prendete il sole, un colpo d'aria. Chiamateci, due esperti a vostra disposizione, 824 0024, il numero per inviare i messaggi 349 238 6666. Una mela al giorno. Allora, dicevamo che le feste, lo sappiamo, sono qui, alle porte. Tutti noi cerchiamo di addobbare le nostre case, facciamo programmi di vacanze e poi ci guardiamo e vogliamo anche essere un po' più belli. E una delle parti del nostro corpo che possiamo cambiare rapidamente o almeno modificare e abbellire sono le unghie. Per noi donne sono spesso un vanto, allo stesso tempo un cruccio, specie se sono fragili, se magari le mangiamo, e l'unghia dà alla mano tutto un aspetto diverso se ben curate. Allora cerchiamo di capire se e come è arrivato il momento di ricostruire le nostre unghie. Lo facciamo con la dottoressa Sandra Lorenzi, che è tornata a trovarci. Buongiorno, dottoressa Lorenzi. Buongiorno a voi, grazie. Direttore scientifico dell'IDE, che è l'Istituto Dermatologico Europeo. Allora, dottoressa, io vorrei fare con lei una sorta di mini bigino con dei consigli utili per capire cosa è giusto fare e cosa è meglio evitare. Bene, per carità, sia le unghie artificiali, se vogliamo passare una serata particolare, se vogliamo avere le nostre unghie speciali per una serata. Attenzione, nel senso sì, se vogliamo farlo per una serata, ma no, se pensiamo di risolvere con il problema con le unghie artificiali dei problemi delle nostre unghie. Voglio spiegarmi. Le unghie artificiali non servono per risolvere dei problemi di fragilità. L'applicazione di un'unghia artificiale su un'unghia fragile non fa altro che renderla ancora più fragile e quindi non fa altro che aumentare ancora di più l'assottigliamento della lamina, okay? Le unghie artificiali vengono, sia che siano già preformate, le cosiddette types, o che vengano ricostruite, sono unghie in resina che si attaccano praticamente alla preesistente lamina con delle colle. Sì. Quindi i rischi di queste unghie sono l'eventuale sviluppo di dermatiti da contatto allergiche a queste sostanze, quindi chiaramente in un soggetto che ha già una particolare predisposizione per queste patologie, molta attenzione. Inoltre le unghie artificiali vanno mantenute, uno non può pensare di applicarle e poi lasciarle lì per mesi, tanto si staccano prima o poi, no, assolutamente. Vanno mantenute, ogni mese vanno corrette, e questo lavoro deve essere fatto da professionisti, anche perché se no si incorre poi anche nell'eventuale sviluppo di sovrainfezioni batteriche. Quindi, ricapitolando, dottoressa Lorenzi, se vogliamo per una sera tipo le unghie usa e getta, un po' come le lenti a contatto, quelle che mettiamo magari per una sera colorate, devono durare una sera e poi si tolgono, vero? Assolutamente sì. Per la ricostruzione vera e propria, che utilizza come sempre delle resine, affidarsi a personale specializzato, ma soprattutto ricordare che la manutenzione conta ed è fondamentale. La manutenzione è importante, va fatta almeno ogni 20-30 giorni, perché l'unghia è comunque una struttura che sottocresce e quindi va fatto, diciamo, la correzione a livello del margine prossimale dell'unghia, va limata l'unghia, insomma è come affidare i nostri capelli a una parrucchiera, non possiamo dimenticarcene. Dottoressa Lorenzi, lei le ha mai provate? Magari per una sera, mi piacerebbe molto saperlo. No, sì, ha riso, vuol dire che le ha provate anche lei, si è lasciata sedurre dall'artiglio la nostra dottoressa Lorenzi. No, quelle di una sera le ho provate, vede. Di una sera sì. Per vedere un pochino l'effetto, ma devo dire che non le trovo, per quello che mi riguarda, molto, molto pratiche. Okay? Bisogna essere brave a metterle, sì, vero? Bisogna anche lì essere brave a metterle, ma anche a saperle portare, a saper poi muovere le mani in un certo modo, insomma, devo dire. Sì. Non posso fare chiaramente le altre, anche perché... No, una dermatologa con le unghie lunghe che ti visita, no, diventa un po'... dottor Cusini, no, lei poi, che dice? Esistono dei, no, dei criteri da parte anche dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, le unghie sotto sono comunque una sede potenziale di virus, di batteri, e quindi esiste il rischio proprio di contaminazione. Infatti il dottor Cusini, cosa rara per un uomo, ma è un medico, quindi ha delle mani perfette, curatissime, con delle unghie quasi da manicure. Dottoressa Lorenzi, grazie, buona giornata, grazie a voi. Buon Natale, grazie a voi, se non ci sentiamo. Auguroni a tutti, grazie. Ciao Sandra. Pronto soccorso. Febbre e fuoco, oggi parliamo di herpes, in particolare di quello labiale, la febbre per l'appunto, e di fuoco, l'herpes zoster, il famoso fuoco di Sant'Antonio. Oggi però, come anticipato, vogliamo anche allargare il discorso all'herpes genitalis, di cui, dottor Cusini, stanno aumentando anche i casi, vero? Naturalmente tra le persone sessualmente attive, è così? Sì, l'herpes genitalis è in aumento e oggi poi si sta creando un certo mix tra i due tipi di virus. Non è più possibile distinguere l'herpes labialis causato dal virus di tipo 1 e l'herpes genitalis causato dal virus di tipo 2. Direi che l'herpes genitalis comincia ad essere causato anche dal virus di tipo 1. E questo succede perché... Mescolamento che cosa ci porta? Questo mescolamento ci porta sostanzialmente ha una possibilità di trasmissione per via sessuale del virus di tipo 1 che in parte è figlio del fatto che è un po' diminuita la frequenza dell'infezione da tipo 1 in età pediatrica, in età infantile. Sì. Quello che si dice, un po' scherzando, ma un po' è vero, che le mamme baciano un po' meno i loro figli e quindi trasmettono un pochettino meno il tipo 1, vaccinano un po' meno, se vogliamo, i loro figli. Quindi meglio che le mamme bacino, no? Sì. Tornino a baciare sì. i loro bambini. Io sì. sono una mamma baciona, le bacio anche adesso che hanno 20 anni. Professor Crucu, l'herpes però, adesso anche se il dottor Cusini ci ha dato questa notizia che l'uno si mescola al due, comunque ha come caratteristica il fatto che vive in uno stato di dormiveglia ben nascosto nei gangli nervosi, poi si riattiva. Ma chi ne soffre sa che ha, mi passi il termine, il sonno leggero, perché le bollicine sulle labbra spuntano puntuali dopo un'esposizione al sole, vabbè adesso che è inverno bisogna aspettare di andare in montagna, ma quando siamo particolarmente stressati o ancora in concomitanza di un'influenza, un raffreddamento. Questo sì. è quello che sanno bene i pazienti, ma la ricerca che cosa dice? Perché avete scoperto qualche cosa? Ma la ricerca sicuramente dimostra che tutte le condizioni di depressione delle difese, che a loro volta sono secondarie a condizioni di depressione psicologica, sono favorenti. Sì. Però io credo che i fattori fisici, come esperienza personale, siano determinanti. Io sono un surfista, un windsurfista, diciamo, fino a un anno fa lo ero, adesso non ce la faccio più. No, dai, non dica così. Era veramente tremendo, perché sul windsurf con le labbra esposte al sole, all'acqua, al vento, io per anni avevo un labbro inferiore gonfio come una banana. Una cosa incredibile. Tra l'altro, ecco, forse poi il dottor Cusini mi può confermare, io se ho ben capito, per la forma labiale c'è una sorta di feedback, feed forward negativo, nel senso che più spesso ce l'hai, più facilmente ce lo riavrai, cioè la moltiplicazione virale è, vero? Questo... è importante, però questo me lo deve dire Cusini, ecco io. Quindi però, vede. Prima di concludere voglio solo dire che non è che ho smesso il windsurf per questo, perché non ce la faccio più con le braccia ormai. Ma senta, no. Professore, però lì può andare un po' in palestra e mettersi quelle belle pomatine che proteggono, dottor Cusini? Allora, professor Crucu ci avrà già pensato. Ma... immagino di sì, il problema è che sicuramente i raggi ultravioletti sono uno degli eventi scatenanti principali per l'herpes labiale. I raggi ultravioletti con la fatica del windsurf direi che vengono... E quindi c'è questa doppia... Certo, c'è una doppia motivo di rischio. Le creme solari schermanti totali servono, a patto di usarle più volte al giorno, perché le creme schermanti non durano né 6, né 8, né 12 ore, soprattutto se poi uno è in mezzo al mare e con le labbra bagnate, quindi... questo è il problema. Quelli sono bei ricordi, al sì, mare con le labbra bagnate. Adesso noi qua siamo al freddo, ma al freddo come funziona con l'herpes labialis? Ma nella stessa maniera, nel senso che... adesso che andiamo in montagna. Comunque localmente, a parte che in montagna l'irraggiamento da raggi ultravioletti è particolarmente importante, ma anche il freddo agisce come depressore dell'immunità naturale, dell'immunità locale. Non c'è bisogno, non vorrei... che tutti quelli che hanno un herpes labiale pensassero di avere un deficit immunitario. Questo non è, può essere un deficit temporaneo, momentaneo e localizzato, soprattutto di quella che è l'immunità naturale, cioè quella che acquisiamo alla nascita, che è estremamente importante nella prima fase della protezione da qualsiasi agente infettivo. Voi dite subito, voi dermatologi, ai primi, appena si manifestano, no, le prime sensazioni, che sono solitamente, così mi raccontano gli amici che soffrono di febbre, questa tensione, questa bruciore, intervenire subito. Perché? Perché è stato ampiamente dimostrato che la replicazione virale è propria, cioè l'aumento della carica virale, della quantità di virus prodotto e di conseguenza del danno che il virus può produrre, è proprio delle primissime ore del ciclo dell'attacco di herpes labiale, diciamo così. E quindi arrivare dopo 8-12 ore, è quando tardi. Già le vescicoline ci sono, allora cambia pochissimo. Quindi è inutile anche comprare la crema a quel punto lì. Meglio i disinfettanti, meglio tenere pulito con della fisiologica che non la crema che magari occlude e favorisce i batteri. Vedi, ecco, Roberta dalla provincia di Bergamo, lo sapeva? Buongiorno. Buongiorno. Io sono un'esperta di herpes, visto che la vita che ne so, io ho 40 anni. Sì. E quindi minimo stress esce l'herpes sulle labbra. Devo dire che non ho mai la febbre corporea e si manifesta però sulle labbra in modo proprio esagerato. Io volevo però chiedere fare una domanda per mio figlio. Io ho 5 figli e nessuno fortunatamente ha preso questo herpes tranne mio figlio Pietro che ha 7 anni. Ecco, vedo che molto molto spesso ha questa febbre sulle labbra. Volevo chiedere se era necessario fargli fare degli esami. La pediatra mi ha già risposto di no, però volevo chiedere al dermatologo una risposta più specifica. Roberta, ha fatto bene, forse l'ha baciato di più degli altri, ha fatto delle preferenze, Roberta? No, Pietro l'ha sbaciucchiato di più. Dottor Cusini, cosa facciamo con Pietro? No, chiedevo al dottor Cusini cosa potevamo fare con Pietro, se accettiamo l'invito della pediatra è tutto tranquillo oppure... Io accetto l'invito della pediatra, era quello a cui mi riferivo un attimino prima. Non è vero che avere l'herpes labiale voglia per forza dire essere immunodepressi, ci mancherebbe altro. Probabilmente anche i suoi altri 4 figli hanno l'infezione da herpes di tipo 1, ma hanno acquisito, si sono costruiti una loro immunità che per il momento funziona. In Pietro no, credo che l'herpes sia lo stesso. Ma non c'è necessità di andare a ricercare nulla, c'è la necessità di togliergli il disturbo quando subito, viene subito, giocando d'anticipo. Professor Crucco, lei l'ha mai attaccato a qualcuno dei suoi figli? Io figlio sono una sola bellissima senza herpes che per fortuna mi sbaciucchi ancora ma non ho mai attaccato nulla, no, io credo che magari la passione per windsurf, questa è una bella cosa. Essere e benessere. Ecco, ci siamo tornati, ci occupiamo di tre delle componenti della famiglia dell'herpes. Abbiamo detto che alcuni sono 8 almeno fino ad ora quelli conosciuti. Magari il prossimo anno ce ne saranno altri, ne scoprirete altri. Noi faremo nuove puntate. Dottor Cusini, volevo chiederle, così rispondiamo a diversi messaggi. L'herpes labialis può migrare in altre sedi e quindi arrivare sulle mucose, sulla lingua, nelle gengive o... e altro. Allora, l'herpes labialis, come tutti gli herpes, come diceva Antonio Volpi, stabilisce una latenza, si nasconde in una radice sensitiva di un ganglio nervoso e quindi può diffondersi al territorio di innervazione di un nervo sensitivo. Se pensiamo alla faccia, il trigemino copre un'ampia superficie del volto, quindi è possibile che un herpes labialis passi dal labbro alla regione zigomatica piuttosto certo. che lì intorno. Più difficile che si manifesti in sedi più lontane. Professor Crucco, proprio con lei che abbiamo fatto una puntata insieme sul trigemino, quindi le vie del trigemino sono preferite dall'herpes? Sono come delle strade segnate? Beh sì, diciamo è uno dei territori di più frequente interessamento, se state parlando sempre del tipo 1, sì. Ma anche nello zoster, seppur non essendo la più frequente. Ci sono localizzazioni anche in altri nervi cranici più raramente, addirittura anche nel ganglio genicolato del nervo facciale. Che nome è difficile questo ganglio, io non ho capito. Delle eruzioni dentro l'orecchio si vedono. Mamma mia, che dolore. Con la paresi del facciale e la sindrome di Ramsay-Hunt. Mamma mia, ma qua è tutto un fiorire di notizie, cioè, dottor Cusini? E cioè per contiguità non c'è più solo un danno alla struttura sensitiva, ma c'è anche un danno al nervo motorio, al nervo che ci serve a muoverci. Casi rari. Grazie però. A Dio non frequenti, almeno il collega neurologo ne vede sicuramente più di me, ma non credo che siano frequenti. Andrei a Udine che ci aspetta Donatella. Buongiorno Donatella. Buongiorno. Siamo qua. A mia figlia viene l'herpes, non labiale, ma vicino all'occhio, sì. nei polsi e in altre parti del corpo e viene ripetutamente. Sì, e sono sempre queste bollicine che hanno la... Queste bollicine sembrano purulente o piene d'acqua, che fanno molto da fastidio. Allora, adesso dal dottor Cusini ci facciamo descrivere bene queste bollicine. Sono bollicine di solito a forma di grappolino. A grappolo, da cui... Poi si aprono e viene la crosticina. E poi si aprono e viene la crosticina. Questa è la storia dell'herpes labialis, che anche non trattato dura 5, 6, 7 giorni e... regredisce spontaneamente. Sì. Quello che può succedere è difficile che un herpes simplex abbia molte sedi, per cui qualche dubbio diagnostico mi viene. Esiste però una forma rara, ma comunque che vediamo con una certa frequenza, che si chiama eritema multiforme post-herpetico, cioè una reazione immunologica dell'organismo per cui dopo un episodio di herpes, sia esso labiale o genitale, non ha importanza, si possono manifestare delle altre eruzioni, magari simili ma non uguali, ma ci vuole l'occhio del dermatologo, sì, in sedi lontane. Ma non è tutto herpes quello che luccica in questo, certo, caso. Certo, quello che si da grappolo non mi, esatto, viene. Senta, in ogni modo, noi che cosa si deve fare? Appena ci sono le bollicine... Appena sentiamo questa tensione si applica un prodotto specifico che si compra anche in farmacia, andando al farmacista. Cosa ci facciamo consigliare? La metto in difficoltà? Mi metti in difficoltà perché... Però è questo che vogliamo sapere. Lo so, perché se andiamo a leggere la letteratura scientifica, schiavi un po' del modo anglosassone di vedere le cose, la evidence-based medicine, la medicina basata sull'evidenza, vediamo che la cremetta antierpetica, per quanto correttamente utilizzata, porta a un miglioramento nell'ordine del 10-12%, quindi il miglioramento è molto molto scarso. Sono altrettanto importanti, altrettanto miglioramento, probabilmente si può ottenere anche solo con delle misure di banale igiene, disinfettare con della fisiologica, con della mucchina opportunamente diluita, mi raccomando, sì, senza bruciarsi con i disinfettanti, precocemente la lesione e impedire la sovrapposizione batterica, la sovrainfezione. Dottore, sai che ci sono tantissimi SMS che ci racconta dei nostri ascoltatori che ci dicono come, cosa fanno quando hanno l'herpes, dalla varichina acqua ossigenata al dentifricio, una pappetta di acqua e farina, insomma chi più ne ha più ne metta, ma io andrei a Ferdinando che ci chiama da Roma. Buongiorno Ferdinando. Buongiorno a lei. Ferdinando. Il mio intervento è questo, intervenire tempestivamente riguardo all'herpes zoster, per spezzare una lancia in favore del dermatologo, è difficilissimo, sì, perché la sintomatologia che ho avuto io era localizzata, un dolore localizzato sulla spalla, dietro la spalla, che si irradiava sotto l'ascella e che io ho in qualche modo cercato di individuare andando dall'ortopedico, dal traumatologo. Certo. Soltanto l'ecografo ha visto una bollicina sotto l'ascella e ha diagnosticato l'eventuale herpes zoster. È passata una settimana dal giorno in cui ho provato questo dolore. Chissà che dolore. Quindi il dottor Cusini è salvo, ma io andrei dal professor Crucco perché Ferdinando ci racconta una storia di peregrinazione tra un medico, l'ortopedico, il traumatologo, sì, eccetera, quando una male, perché se la bollicina non si vede. Sì, però la vicenda di Ferdinando è del tutto straordinaria, cioè i casi di zoster sine herpete, cioè di tutta la sintomatologia senza avere le bolle vescicolare, sono veramente rari e rappresentano una difficoltà diagnostica notevole anche per noi. Bisogna sempre pensarci quando c'è una sintomatologia distribuita lungo un dermatomero, soprattutto che sotto la spalla prende la scapola e poi scende in avanti sulle coste superiori e va verso la zona sotto, immediatamente sotto mammaria, quella a fascia sotto seno, sì, delle donne, è uno dei territori più comuni che ci siano. Allora è ovvio che se c'è prima il bruciore, poi l'eruzione vescicolare, poi le crosticine, poi le macchiette discromiche distribuite a fascia non c'è difficoltà diagnostica. Ormai dopo questa descrizione, professor Crucco, facciamo anche noi diagnosi. Chi ha ascoltato Essere Benessere ormai capisce. Ma io vorrei chiedere al dottor Cusini come si prende l'herpes zoster. Sappiamo che c'è di mezzo la varicella, quindi? La storia di un'infezione da varicella zoster precedente è obbligatoria. L'herpes zoster non si prende, nel senso che l'herpes zoster viene perché il virus della varicella che abbiamo acquisito magari 20, 30, 40, 50 anni prima, improvvisamente per qualche motivo si risveglia. Si risveglia perché è diminuita la nostra capacità difensiva specifica, perché i nostri anticorpi antivaricella zoster sono diminuiti nel tempo. A questo proposito voglio citare una simpatica ricerca inglese che ha visto come la frequenza di zoster sia inferiore in nonni che stanno coi bambini che fanno la varicella, perché venire in frequente contatto, ancora una volta il bacio ai bambini, sono fonte di salute, stare in contatto coi bambini sviluppa un'immunità specifica e quindi ti protegge, come se ti vaccinassi o ti continuassi a vaccinare contro lo, ecco, quindi lo di zoster. Solito quando i nonni poi dicono no, non vengo perché ha invece no, no vieni che ti salvi. Essere e benessere. Professor Crucco, perché il fuoco di Sant'Antonio dà spesso così tanti problemi? Si ritorna? Ma ritornano le bollicine o un dolore diverso? Dunque, ci possono essere molteplici eruzioni nel corso della vita. Di solito il tipo di dolore dipende poi da quali neuroni sensitivi casualmente sono andati in morte cellulare, quali si sono demilinizzati, quali invece sono rimasti indenni. Caratteristicamente nell'herpes zoster, soprattutto poi nella nevralgia postherpetica, i pazienti si lamentano innanzitutto di un bruciore urente costante. Da lì perché la chiamiamo fuoco, giusto? Proprio fuoco, come un sì, fuoco. Fuoco di Sant'Antonio. Sant'Antonio perché Sant'Antonio non è che lo manda lui, perché c'era la cintura. No, lo curava. Sì, Sant'Antonio Abate è un personaggio storico. Che è quello che ha inventato, diciamo, gli ordini monacali. Gli ordini monacali. Ma lui, secondo la leggenda, era sceso agli inferi in mezzo alle fiamme, ma di fatto era ricercato da tutti i pazienti che avevano bruciori perché con delle erbe trattava e si è poi capito la descrizione delle eruzioni cutanee dei pazienti che effettivamente lui curava l'herpes zoster. E vede, e lei è capace più o meno come Sant'Antonio? Riesce ad ottenere dei risultati oggi? No, purtroppo no, perché per fortuna nella maggior parte dei casi, come diceva il dottor Cusini, c'è una risoluzione spontanea. Questa risoluzione spontanea può avvenire nel giro di 15 giorni, di 30 giorni, di 45 giorni, in alcuni casi purtroppo invece rimane molto a lungo e in alcuni casi può rimanere per tutta la vita. E insomma fate volta... poco professore, insomma fate poco. Facciamo poco, sì, perché siccome il paziente ha più tipi di dolore, perché oltre ad avere il bruciore costante ha anche spesso dolore parossistico a scosse, ha l'allodinia, cioè quel fastidiosissimo fenomeno per cui il contatto con le lenzuola o gli indumenti diventa molto doloroso. Estremamente doloroso. I farmaci che abbiamo a disposizione, diciamo, sono risolutivi nel non più del 30% dei casi, quindi nella maggior parte dei casi riusciamo a fare veramente poco. Vabbè. Una delle patologie almeno per cui... apprezziamo la vostra onestà. Io invece vorrei dal fuoco di Sant'Antonio tornare rapidamente all'herpes genitalis, perché se ha le caratteristiche uguali agli altri virus della famiglia ce l'abbiamo, sta in dormiveglia, per cui possiamo averlo senza rendercene conto, no? non sempre ci sono queste manifestazioni erpetiche, quindi... Assolutamente sì, anche per l'herpes genitale è calcolato che solo il 25% degli infetti sviluppi poi una o più manifestazioni da herpes genitalis nella vita. E per quanto riguarda la frequenza è stata calcolata estremamente elevata. Negli Stati Uniti d'America, su uno studio sulla popolazione generale, è stato calcolato che il 22% della popolazione definita sessualmente attiva, che tra i 14 e i 45 anni, mi dispiace per me e per gli altri oltre 45 anni, sì. È presente nel 22% dei casi. Quindi è un numero... È una percentuale altissimo. Molto elevata, vuol dire una persona su 5. In Italia un pochettino meno, però ci sono... Tanto poi noi ci arriviamo sempre, guardi, vero, a raggiungerli. Sì, sì, sì. Tanto non c'è sì. problema. Io volevo, quindi attenzione, ma soprattutto deve fare attenzione la donna in età fertile, e ci facciamo spiegare perché con alcune raccomandazioni dalla nostra professoressa Nappi. Buongiorno professoressa Nappi. Buongiorno Nicoletta. Ginecologa, allora... endocrinologa, sessuologa all'Università di Pavia, ma a Essere Benessere la conoscono bene. Professoressa Nappi, siamo in chiusura, raccomandazioni per le donne in età fertile, herpes e possibile gravidanza. Allora, la positività dell'herpes, come diceva il collega, è frequente, quindi dobbiamo partire in gravidanza sapendo se abbiamo una positività o meno. Sì. A quel punto ricordarci che i veri rischi sono le prime infezioni, soprattutto quelle che avvengono o precocissimamente perché possono portare all'aborto, sì. oppure le più rischiose sono quelle che avvengono nell'ultimo trimestre perché possono dare grossi problemi ai bambini, e soprattutto ci limitano perché ci indicano il taglio cesareo, nel senso che un'infezione attiva purtroppo non ci permette il passaggio del piccolo nel canale del parto. Però attenzione, niente allarmismi, è normale che in gravidanza possano riattivarsi delle infezioni pregresse da herpes, se noi le riconosciamo con tempismo, oggi le curiamo e abbiamo problemi nel meno dell'1% dei casi. Quindi è giusto fare gli esami, è giusto stare sotto controllo, ma niente paura perché riusciamo a gestire bene la situazione con dei controlli regolari. Mi piace, professoressa Nappi, lei mi piace molto. Grazie, la lascio grazie al suo convegno da cui l'abbiamo strappata e le auguro una buonissima giornata. Buona giornata a tutti. Allora, ricapitolando, vogliamo dare delle raccomandazioni ai nostri ascoltatori riguardo al ciascun tipo di herpes. Allora, per l'herpes labiale, raccomandazione, tenete lo stress sotto controllo e i primi sintomi, attivatevi. Certo, anche trattatelo se... anche col dentifricio, se il dentifricio funziona. Per l'herpes genitalis, dottor Cusini? L'herpes genitalis, ci sono alcune raccomandazioni da aggiungere. Purtroppo è vero che non è prevedibile quando noi, se siamo affetti da herpes genitali, lo possiamo trasmettere a un nostro partner. Il contatto sì. è sempre diretto tramite i rapporti sessuali. Però è vero che esiste la possibilità di uno shedding asintomatico, di una liberazione di particelle virali e quindi la possibilità del contagio anche in assenza di sintomi. Pochi giorni all'anno, ma succede. Professor Crook, una battuta, una parola di sollievo a chi invece è così disturbato dal fuoco di Sant'Antonio, proprio per salutarci? Beh, questa, che cioè anche se è durato molti, molti mesi, può solo che migliorare, non potrà mai peggiorare, perché l'esito di un qualcosa che c'è stato sì. non è progressivo, ve lo dico perché io ho dei pazienti che sono preoccupati di peggiorare ulteriormente, sì. cosa che è impossibile, e si può sempre scomparire da solo. Magnifico. Quindi con questo messaggio natalizio. Va bene, professore, grazie, è stato davvero gentile a stare con noi. Io la saluto. Nicoletta. Grazie. E io saluto Laura Tonatto che è in linea con noi. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Creatrice di profumi, ma non devo neanche presentarla, tutti la conoscono e anche oltre Alpe andiamo, insomma, la sua fama. Ma signora Tonatto, io la chiamo perché per tutta questa settimana noi staremmo insieme in chiusura per scegliere il profumo del nostro Natale. Sì, allora partiamo proprio dalle... Pendiamo dalle sue labbra, cioè stiamo dilatando le narici, anche il dottor Cusini qua in studio con me, e noi ci lasciamo inebriare dalla sua voce profumata. Grazie. Allora partiamo da queste tonalità proprio del Natale, dei Re Magi che hanno portato a Gesù Bambino tre doni, oro, incenso e mirra. L'incenso e la mirra sono due resine. Pensate quanta importanza aveva già da allora questa magnificenza della profumazione, perché l'incenso assolutamente è la nota che in tutte le religioni porta al misticismo. Quindi sono profumi contemplativi. Assolutamente, per tutti gli esseri umani. E poi la mirra, anche qui un'altra resina che viene utilizzata sia per profumare, per allontanare i demoni, ma anche per disinfettare. Queste resine in tutti i paesi del mondo arabo vengono masticate per disinfettare la bocca. Quindi tonalità molto molto invernali e molto mistiche. Allora, questo è un suggerimento, quindi incenso e mirra, due profumazioni per il nostro Natale. La signora Tonatto ci ha spiegato anche le origini, quindi contemplative ma allo stesso tempo disinfettanti. Sentiremo la signora Tonatto domani perché tornerà a trovarci con una nuova profumazione per il nostro Natale. Signora Tonatto, grazie per essere stata con noi, grazie, buona giornata. Saluto il dottor Cusini, mi raccomando, incenso e mirra anche per lei. Grazie. Io vi lascio, vi do appuntamento a domani, sono un po' in ritardo, ma domani sarò più brava.